Canto 33esimo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 33esimo. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendo la capelli del capo che gli avea di retro guasto. Poi cominciò: «Tu vuoi ch'io rinnovelli disperato dolor che il cuor mi preme, già pur pensando pria ch'io ne favelli? Ma se le mie parole esser d'en seme che frutti infamia al traditor ch'io rodo, parlare e lagrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu dei saper ch'io fui il conte Ugolino e questi l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò per chi son tal vicino, che per l'effetto de suo ma pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio, dentro dalla muda, la qual per me al titol della fame, e in che conviene ancor ch'altri si chiuda, m'avea mostrato, per lo suo forame, più lune già, quand'io feci il mal sonno e del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte, perché i pisan veder lucca non ponno. Con cagne magre, studiose e conte, gualandi con sismondi e con lanfranchi, s'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi pareano stanchi lo padre e i figli, e con l'agute zane mi parea lor veder fenderli fianchi. Quand'io fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figliuoli, che eran con meco, e dimandar del pane. Ben se crudel, se tu già non ti duoli pensando ciò ch'al mio cuor s'annunziava. E se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava che il cibo ne soleva essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. Ed io sentì chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso a miei figliuoi senza far motto. Io non piangeva, sì dentro impietrai. Piangeva Nelli, ed Anselmuccio mio disse: «Tu guardi sì, padre, che hai?» Però non lagrimai, ne risposi io tutto quel giorno nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, ed io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le mani per dolor mi morsi, e quei, pensando che io fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser: «Padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia». Quetami allor per non farli più tristi. Quel dì e l'altro stemmo tutti muti. Ahi, dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto divenuti, Gaddo mi si gittò disteso a piedi, dicendo: «Padre mio, che non m'aiuti?» Quivi morì, e come tu mi vedi, vid'io cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi già cieco a brancolar sopra ciascuno, e due dì li chiamai, poi che fur morti. Poscia, più che il dolor poté il digiuno. Quand'ebbe detto ciò, con gli occhi torti riprese il teschio misero codenti, che furo all'osso come d'un can forti. Ahi, Pisa, vituperio delle genti, del bel paese, là dove il sì suona, poi che vicini a te punir son lenti, muovansi la capraia e la gorgona, e faccian siepe ad arno in sulla foce, sì che egli annieghi in te ogni persona. Che se il conte Ugolino avea voce d'aver tradita te delle castella, non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. Innocenti facea l'età novella. Novella Tebe, Guccione, e il Brigata, e gli altri due che il canto suso appella. Noi passammo oltre, dove la gelata ruidamente un'altra gente fascia, non volta in giù, ma tutta riversata. Lo pianto stesso lì pianger non lascia, e il duol che trova in sugli occhi d'intoppo si volve nentro a far crescer l'ambascia, che le lagrime prime fanno groppo, e sì come visiere di cristallo riempon sotto il ciglio tutto il coppo. Ed avvegna che, sì come d'un callo, per la freddura ciascun sentimento cessato avesse del mio viso stallo, già mi parea sentire alquanto vento. Perch'io, maestro mio, questo chi muove? Non è quaggiuso ogni vapore spento? Ond'egli a me. Avaccio sarai dove di ciò ti farà l'occhio la risposta, veggendo la cagion che il fiato piove. Ed un de tristi, della fredda crosta, gridò a noi: O anime crudeli tanto, che data v'è l'ultima posta, levatemi dal viso i duri veli, sì che io sfoghi il dolor che il cuor m'impregna, un poco pria che il pianto si raggeli. Perch'io a lui: Se vuoi che ti sovvegna, dimmi chi sei, e s'io non ti disbrigo al fondo della ghiaccia, ir mi convegna. Risposa dunque: Io son frate Alberigo, io son quel dalle frutta del mar orto, che qui riprendo dattero per figo. Oh, dissi lui, or sei tu ancor morto? Ed egli a me: Come il mio corpo stea nel mondo su, nulla scienza porto. Cotal vantaggio a questa Tolomea, che spesse volte l'anima ci cade, innanzi ch'antropos mossa le dea. E perché tu più volentier mi rade le invetriate lagrime dal volto, sappi che tosto che l'anima trade, come fec'io, il corpo suo l'è tolto da un demonio che poscia il governa, mentre che il tempo suo tutto sia volto. Ella ruina in si fatta cisterna, e forse pare ancor lo corpo suso dell'ombra che di qua dietro mi verna. Tu l dei saper, se tu vien pur mo giuso. Egli è ser Branca Doria, e son più anni poscia passati che il fu sì racchiuso. Io credo, disse lui, che tu m'inganni, che Branca Doria non morì unquanche, e mangia, e bee, e dorme, e veste panni. Nel fosso su, dissei di male branche, là dove bolle la tenace pece, non era giunta ancor Michel Zanche, che questi lasciò un diavolo in sua vece nel corpo suo, ed un suo prossimano che il tradimento insieme con lui fece. Ma distendi oramai in qua la mano, aprimi gli occhi. Ed io non glieli apersi, e cortesia fu lui esser villano. Ahi, genovesi, uomini diversi d'ogni costume e pien d'ogni magagna, perché non siete voi nel mondo spersi? Che col peggior spirito di Romagna trovai un tal di voi che per sua opera id anima incocito già si bagna, ed in corpo par vivo ancor di sopra. Fine del canto 33esimo.